ore 8.37 di lunedì 21 febbraio 2005. Si moltiplicano le preoccupazioni per il bullismo degli Stati Uniti dopo la rielezione di Bush, si parla di azioni militari in Iran, in Corea del Nord. Nel frattempo Bush si è lanciato in un'operazione simpatia dalle dubbie prospettive. Oggi incontrerà Barroso a Bruxelles e anche Chirac, sarà divertente vedere testa a testa con Chirac. Ma io devo dire, forse tutte queste preoccupazioni sul bullismo americano ci sembreranno un po' ridicole tra una trentina d'anni forse, quando ci renderemo conto che è la Cina la vera grande superpotenza. Già i dati economici sugli scambi commerciali, per esempio tra l'Unione Europea e la Cina, la dicono lunga sulle prospettive, sullo spostamento dell'asse commerciale negli scambi internazionali. Però ci sono certe volte dei segnali deboli, non meno però importanti, di come stia cambiando il vento. Proprio ieri, consultando la lista dei canali esotici di Sky, una ventina di canali si possono memorizzare al di fuori dell'offerta Sky, questo per una limitazione del decoder di zio Murdoch, insomma, ho deciso di sintonizzare un nuovo canale cinese che si chiama CCTV, è in realtà il nono canale della TV di Stato cinese ed è in lingua inglese, ed è per questo che ho deciso di dargli un'occhiata, anche perché altrimenti francamente credo che avrei avuto qualche problema a capire. Ed è un canale che, allora, di per sé è fatto benissimo, è parlato in un inglese fantastico, molto comprensibile, quindi lo consiglio anche a chi crede di non capire questi canali internazionali, che sono forse in troppi quelli che pensano di non capire l'inglese. Ed è un canale realizzato un po', diciamo, sul modello della CNN, per certi versi, forse del World Service, della BBC, perché non c'è proprio solo informazione, ci sono anche documentari, approfondimenti. E al di là, ecco, della dimostrazione che da sola è costituita da questo canale, cioè il fatto di poter copiare il modello occidentale e riproporlo addirittura in versione migliorata, il canale stesso è una vetrina non ostentata della reale grandezza di questo paese, che è destinato a fare da grande mamma di tutto il pianeta, come tra l'altro per diritto, diciamo così, naturale, dato che sono ormai credo più di 2 miliardi i cinesi. Quindi penso che molto presto dovrò cominciare a entrare nell'ordine di idee di iscrivere mia figlia a un corso, adesso vedremo se di cantonese o di mandarino.